Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Veneto Agricoltura ha da pochi giorni pubblicato un dossier sugli organismi geneticamente modificati, noti come OGM, che tende un po' a fare il punto della situazione, in particolar modo in Europa. Quello degli OGM è un dibattito che torna spesso, anche perché diverse sono le posizioni su questa questione. Oggi vorremmo un po' farne il punto, capire di cosa stiamo parlando, un po' quali sono un po' le dimensioni e le principali problematiche della questione. E abbiamo invitato Luigino Disegna, direttore della sezione Innovazione e Sviluppo di Veneto Agricoltura. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Vorremmo un po' proprio capire da lei, calcolato un po' questo dossier, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di organismi geneticamente modificati. Cosa significa esattamente? Ma sostanzialmente gli organismi geneticamente modificati, in gergo OGM, sono degli organismi, sia piante che microrganismi che animali, il cui materiale genetico è stato modificato con modalità che non avvengono naturalmente per sistemi di fecondazione, quindi sessuali, o di ricombinazione naturale, quindi le mutazioni naturali nelle piante, per esempio. Gli OGM possono essere vegetali, animali o, come ho detto, microrganismi, quali batteri, parassiti, funghi. Quindi un organismo OGM è geneticamente modificato nel suo patrimonio artificialmente in laboratorio. Perché sappiamo che normalmente nei secoli c'è stato tutto un lavoro di modifica delle piante. Certo, la selezione naturale è anche frutto di mutazioni e quindi di modificazioni improvvise, spontanee del patrimonio genetico, dovuto anche a fattori fisici, per esempio radiazioni piuttosto che scariche elettriche, certo, per dire, che hanno provocato modificazioni nell'ambito del patrimonio genetico dell'individuo e quindi della discendenza successiva a quell'individuo. Ecco, se ne parliamo in agricoltura è perché probabilmente, anzi sicuramente, dietro sono delle questioni di interesse soprattutto economico e riferite ad alcuni prodotti rispetto ad altri. Soia, mais e cotone, sostanzialmente queste sono le tre colture che a livello mondiale sono interessate da un elevato impiego di sementi, diciamo, di origine o geneticamente modificato. Pensiamo che negli Stati Uniti circa il 95% della soia del cotone e l'85% del mais sono di provenienza di seme geneticamente modificato. Come mai queste e non altri? Per esempio non si parla di frumento, non so, oppure non si parla di prodotti orticoli che magari sono... Beh, sono state fatte prove anche sul pomodoro per migliorare la resistenza e determinate caratteristiche intrinseche, anche altri prodotti sono disponibili da semente geneticamente modificata. Queste sono le tre grandi derrate alimentari e agricole in genere. Il cotone ha un utilizzo industriale, oltre che feed, quindi di mangime alimentare, che poi il pannello, il seme di cotone viene, certo, utilizzato anche nella mangimistica, le quali sono interessate a una fortissima corrente di esportazione. Pensiamo a tutto il mais, piuttosto che la soia, che sono coltivate negli Stati Uniti, ma anche nel Centro Sud America, due grandissimi stati per far due nomi, Brasile e Argentina, sono interessati a una forte corrente di esportazione anche verso l'Europa. Queste produzioni sono dall'85 al 95% provenienti da organismi geneticamente modificati. E per l'uomo che si nutre di questi prodotti OGM, sono stati riscontrati problemi di salute? Dal 96 che è possibile produrre in maniera generica la soia negli Stati Uniti, soia da OGM. E la lecitina di soia, che è un ingrediente che viene utilizzato universalmente come ingrediente alimentare, quindi, certo, è disponibile, non ha creato problematiche. Vero è che qualche studio scientifico asserisce che siano aumentate le allergie e quindi probabilmente o possibilmente possono essere imputate anche al consumo generalizzato di OGM. Però detto questo, certo, ci sono anche studi scientifici europei che si partono dallo stesso principio e arrivano a risultati diversi, quasi opposti. Senta, però non è tutto da dimostrare, però in Italia attualmente è proibito la coltivazione. L'Italia, sì, perché l'Europa con una direttiva e dando la possibilità agli Stati membri dell'Unione Europea di decidere la possibilità, la limitazione o il divieto di coltivazione di OGM in tutto o in parte del territorio, certo, lascia libera decisione. L'Italia ha deciso per ora di non concedere l'utilizzo di seme. Sappiamo che è una decisione contestata da alcune categorie in particolare. Ci sono delle posizioni, quindi ci sono i pro, come succede spesso in Italia, i pro e i contro, e ogni pro e ogni contro ha le sue, certo, valide motivazioni per sostenere o per negare questo, certo, questo impiego. Ecco, ci fermiamo qualche istante, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di organismi geneticamente modificati e lo stiamo facendo con Luigino Disegna, direttore della sezione Innovazione e Sviluppo di Veneto Agricoltura. Ecco, dicevamo che non è dimostrato che gli OGM abbiano così influssi negativi sulla salute, però un recente studio metteva in evidenza, per esempio, che negli Stati Uniti è aumentato l'incidenza di un erbicida, se non erro. Quindi sì, non c'è solamente la questione salute, ma anche altre. Diciamo che indirettamente poi ha effetti sulla salute, perché meno chimica viene impiegata nell'agricoltura e meglio è, almeno per un mio concetto personale, credo che sia una convinzione, sì, generale. In effetti il professor Benbrook, che è docente di agricoltura sostenibile nella Washington State University, quindi un organismo di terza parte indipendente, si è preso la briga di passare al setaccio i dati ufficiali dello USDA. USDA sarebbe il corrispondente Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti, e andando a verificare gli impieghi di erbicidi ha dimostrato che le cose non stanno andando molto bene. Ogni anno negli Stati Uniti, da quando è stato liberalizzato l'impiego delle colture OGM, soprattutto riguardo a cotone e soia, ma nel caso specifico mais, e quindi dal 96, lui ha visto i dati dal 96 al 2011 e ha trovato un incremento del volume di un erbicida specifico che è il Roundup, il famoso glifosato, un erbicida, sarebbe un diserbante, un incremento del 25% perché la diffusione di mais OGM ha creato resistenza alle malerbe, quindi le malerbe si sviluppano e quindi automaticamente devi aumentare le dosi di erbicida da utilizzare. E lui dice, lui è professore di, ricordo, professore di agricoltura sostenibile, quindi è un tema che sta a cuore un po' anche a noi europei, che abbiamo un documento che è Europe 2020, Europa 2020, che fa della sostenibilità anche ambientale, oltre che economica e sociale, il leitmotiv dello sviluppo, dello sviluppo dell'Europa fino al 2020 e oltre. E dice questo Benbrook, questo professor Benbrook, che se la situazione non cambia in modo drastico, il quantitativo di glifosato, quindi di questo erbicida, sarà necessario preservare le colture di mais e quindi necessario a mantenere economica questa coltura, dovrà salire presto di un ulteriore 50%. E il dato, dice, è particolarmente significativo e allarmante se consideriamo la pervasività delle sementi OGM negli Stati Uniti. Circa il 95% di soia e cotone sono OGM, circa l'85% di semente di mais per le colture di mais in America è OGM, quindi è un tema, diciamo, che è molto dibattuto e viene adesso reintrodotto come tema di dibattito negli stessi Stati Uniti, che sono stati i precursori, diciamo, delle... Certo, perché anche perché gli OGM dovrebbero da una parte aumentare la produttività e dall'altra anche probabilmente diminuire i costi, e invece qua si ha esattamente l'opposto. Se aumento l'impiego di glifosato, di Roundup, aumento il costo per la coltura, aumento, fra virgolette, la chimica nell'agricoltura, e questo non mi piace personalmente. E quindi si entra in un circolo vizioso che non porta... Che porta a una spirale sempre peggiore. Poi l'altro aspetto che ci fa pensare è che quando noi rilasciamo nell'ambiente, in questo credo che l'Italia sia forse giustamente ancora in dubbio se concedere la liberalizzazione o meno, è che quando noi abbiamo rilasciato nell'ambiente semente OGM non riusciamo, per quanto utilizziamo sistemi di monitoraggio e di confinamento, insomma, c'è la trasmissione anemofila del polline, ci sono carry out possibili estranei al primario che ci portano a disperdere nell'ambiente il seme OGM, per cui perdiamo sostanzialmente il controllo della situazione. Non voglio dire che c'è una contaminazione generalizzata, non è un virus che va a contaminare, quindi a provocare dei disease, delle malattie terribili, però diciamo che economicamente e anche imprenditorialmente e politicamente, diciamo politicamente in termini di politica gestionale delle risorse, perderemmo il controllo della situazione. Capito. E abbiamo fatto un po' il punto, capito qualcosa di più, purtroppo ci dobbiamo fermare, anche se abbiamo visto che probabilmente sono molte altre le questioni che avremmo dovuto trattare, quindi è un tema su cui speriamo di ritornare a breve. E la ringraziamo. Se ritenete, io sarò a disposizione ancora per voi. Benissimo, la ringraziamo intanto. Saluti, buongiorno. Grazie allora al dottor Disegna e passiamo ora ad alcune notizie. Dal 3 dicembre al 3 febbraio 2013 si terranno alla Corte Benedettina di Legnaro 4 appuntamenti di aggiornamento sul turismo rurale. Cos'è il turismo rurale? Cosa raccontare dell'agricoltura veneta e quali professionalità per il turismo rurale? Sono alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposta. L'iniziativa è rivolta sia alle guide che agli operatori del turismo e dell'agricoltura come i gestori degli agriturismi. A conclusione dell'anno internazionale delle bioenergie, Veneto Agricoltura promuove il 5 dicembre la giornata virtuale delle bioenergie. Tecnici e consulenti specializzati nel settore delle bioenergie saranno a disposizione per quanti sono interessati ad approfondire il tema, rispondendo a domande in particolare sulla tematica legno-energia e sui meccanismi di incentivazione. Le domande potranno pervenire per telefono al Veneto Agricoltura, per mail, attraverso i social network dalle 9.30 alle 17.30 del 5 dicembre. Stop ai vini in polvere. Un kit acquistabile su internet assicurava ai consumatori inglesi una bevanda definita vino italiano in 3 settimane, partendo da polverine, agenti chimici, mosto e trucioli di quercia. A seguito di una interrogazione parlamentare dell'onorevole Mara Bizzotto, l'Unione Europea ha chiarito che questi finti vini devono essere immediatamente ritirati dal mercato. Il commissario europeo all'agricoltura, Dacian Ciolos, ha ricordato come i prodotti in questione non possono essere commercializzati utilizzando una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, nemmeno attraverso una semplice evocazione del nome. Secondo il rapporto della Green Economy, per uscire dalla crisi, realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, l'Italia è il paese leader in Europa in agricoltura biologica. Il nostro paese è infatti in cima alla classifica con ben 48.509 imprese agricole biologiche, merito della fiducia prestata dai consumatori italiani agli alimenti biologici, una fiducia che ha permesso a molti imprenditori di investire nella coltivazione a impatto zero. Sono più di 1.100.000 gli ettari di terreno coltivato con queste tecniche sostenibili, circa il 18,7% della superficie agricola intera utilizzata nell'intero paese. Un dato che rende esplicita l'enorme importanza di questo comparto dell'agricoltura italiana. Anche per questa settimana è tutto, il Quadrifoglio vi dà appuntamento alla prossima settimana, vi ricordiamo che potete riascoltarci in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.